Pablo Picasso, raccontato da Barbara Alberti. A metà degli anni 30, Picasso ha lasciato la moglie Olga e ha appena avuto una figlia da Marie-Thérèse Walter. Far fare un figlio a una donna per lui equivale a liberarsene. La sottomissione è compiuta ed ecco, incontra Dora Maar, musa di surrealisti, grande fotografa, bellissima, autorevole. Dora ha un grande curriculum amoroso, ispiratrice di Man Ray, è stata l'amante di Bataille. È la donna più corteggiata di Parigi, ma lui la vede e la dipinge da subito come la donna che piange. Così la vuole fin dall'inizio e così la ridurrà per il resto dei suoi giorni. Intanto fa in modo che lei e Marie-Thérèse, per gelosia, si prendano a schiaffi e si tirino i capelli. Chi non ama si annoia e vedere le due donne che si picchiano lo eccita. È il 1936. Picasso dipinge Guernica e Dora Maar lo fotografa durante il lavoro, 10.000 scatti, e lui intanto la dipinge, la mette nel quadro, Specchi di Narciso. Un amore intenso, folle. Lui si nutre dell'intelligenza di Dora, ma non la sopporta, la vuole distruggere. Natalia Aspesi in un articolo parla della silenziosa e acre venerazione che lei gli dedica, trasformando la sua casa in un sacrario attorno all'ombra gloriosa e cattiva di Picasso. E sempre Natalia Aspesi parla dei 7 anni luminosi e umilianti. Intanto lui si è innamorato di Françoise Gillot. Lei 21 anni, lui 63. Picasso è sempre più famoso, sempre più ricco, sempre più vecchio e ha bisogno di donne sempre più giovani per fermare il tempo. Offre queste donne al tempo come vittime sacrificali perché la morte lo risparmi. E funziona. Questo cannibalismo funziona perché Picasso arriva a quasi 92 anni. Quando incontra Françoise Gillot e con lei tradisce Dora Maar, a lui non basta tradire. Deve fare terra bruciata e userà la sua nuova amante come strumento di tortura contro Dora, che viene trovata nuda per le scale in stato confusionale. E il poeta Loire, che amava tanto Picasso al punto che gli offriva le sue mogli, stavolta si arrabbia. Di Dora si occuperà come medico un altro genio, Jacques Lacan. 10 anni dopo, Picasso farà una scenata di gelosia a un lord inglese, amante di Dora, gridando che nessuno può permettersi di avere una storia con una donna che è il marchio di Picasso. Dora Maar muore a 90 anni, amandolo. Pablo Picasso, capolavori dal Museo Nazionale Picasso di Parigi, dal 20 settembre al Palazzo Reale di Milano. Info radio24.it